La verità è tragica, da volte lattica, magica, mincita, ma se non si capace di quanto è stata nitida, di quanto sia modica, come un prezzo, un po' grezzo, un sollazzo, del quale voracemente ha solo mi sazio. Il vocalizzo è il mezzo che utilizzo per esprimere la tristezza, l'ebbrezza, l'essenza dello scindere il falso dal vero. Io sono arso dal caso, morso dal mostro che mi ha nettato estro pensiero, ma maldestro mi insidio, vedendo sinapsi carbonizzate, varietà di capacità dell'umana psiche atrofizzate, leggendo Gramsci e notando che chi l'ha perpetrato l'ha manipolato soltanto con cazzate, dinanzi le mazze spazzate. Forse per tua testa dovrei darmi fuoco come Norm, ma qua non resta che essere un samurai dinanzi le loro norme, inseguendo le giuste orme, manipolando nelle forme. Ma tu lo sai che io al male non sarò mai conforme.